Vogliamo passare al terzo e ultimo assaggio, ci stiamo forse dilungando troppo. Che il Juan, non Juan, come uno potrebbe. Però lasciamola libera. È liberissima la pronuncia. Anzi, è scritto con la J apposta per confondere le acque, quindi. Stasera siamo appunto in serata di contaminazioni e confusioni, per cui... Adesso Daniele ci racconta questo vino che appunto è il loro, sicuramente è il loro vino simbolo, il vino con cui sono nati e con cui continuano a crescere. Allora, quello che andremo a bere insieme, questo è il mio bicchiere, è il Juan del 2006, si chiama Juan dal nome del vecchietto da cui abbiamo preso le vigne, mi ha detto prima da quali vigne arriva, sono... più o meno 30 vitigni diversi dentro ogni bottiglia. Per metà è nebbiolo, poi c'è un 30% di croatina che da noi è molto comune, si usa per dare scheletro e struttura ai vini. Da noi i vini sono poco tannici, perché abbiamo dei terreni molto, molto sciolti, terreni sabbiosi, che quindi hanno un tannino molto sottile. E quindi curiosamente il nebbiolo ha bisogno di un supporto non solo di colore, che è quello che dà la croatina, non solo di alcol, ma anche di tannino. E quindi un tempo si usava la croatina per integrare, per arricchire il nebbiolo. Poi c'è la vespolina che dà dei profumi fruttati così, ed erano, questa è la ricetta classica. Poi in queste vigne vecchissime, che c'ho la più vecchia a 105 anni più o meno, ci sono molte varietà diverse. Insieme all'Università di Torino per caso abbiamo avuto occasione di fare un censimento di quello che c'era in mezzo alle vigne. Abbiamo trovato tante varietà, c'è del ciliegiolo, 4-5 piante di ciliegiolo che non si sa che fanno lì. E abbiamo escluso una ventina di piante di cui non ci piacevano i frutti, che sono anche uve nere che magari si usano da vinificare ma che a noi non piacevano dentro il nostro vino, e per il resto c'è tutto, è una fotografia delle vigne di anno in anno. Noi facciamo rese molto molto basse, attorno ai 15 quintali per ettaro, pur non avendo particolari fallanze, i vigneti sono molto sani, sono stati reimpiantati mano a mano che le viti morivano negli anni. Però sono viti molto, molto stanche, sono stressate da una vita lunghissima e in parte sono anche stressate da noi quando abbiamo ricominciato a potarle più corte 10 anni fa ormai. Adesso stanno riprendendo una produttività più serena, però hanno un po' cambiato vita quando noi abbiamo iniziato a gestirle invece il Signore prima. E niente, facciamo tante vendemmie mano a mano che matura l'uva, la vendemmiamo, la vinifichiamo in barrica aperta o in acciaio inox, lì dipende un po' dalle partite. E a volte, raramente, abbiamo aggiunto per la prima fermentazione dei lieviti selezionati, naturalmente non OGM, francesi, e, però di solito una volta che è partita una fermentazione in cantina, poi tutte le fermentazioni partono da sole perché i lieviti vivono nella cantina, noi non possiamo scegliere più di tanto cosa fermenterà il nostro vino. E, facciamo in generale macerazioni molto lunghe, se l'uva lo consente. Quindi sui nebbioli, cioè abbiamo un nebbiolo in purezza, facciamo 3 mesi, mi ha fatto 100 giorni in certi anni. E qua stiamo fra i 20 giorni e i 50 giorni, a seconda di quanto l'uva ha dei tannini che sono interessanti da estrarre. E poi il vino va a finire, in questo caso è andato subito a finire in legno piccolo, erano 3 barrique, perché ne facciamo poche bottiglie. Erano 3 legni francesi che avevano fatto un altro vino in precedenza, e quindi i barrique vecchio di un anno. E poi ha fatto, cioè è stato per 3 anni in barrique e poi ha fatto 3 anni d'acciaio, quindi primo invecchiamento ossidativo e poi invecchiamento riduttivo in acciaio, un po' per abituarlo alla vita che dovrà avere in bottiglia, come dicevamo, e poi perché siamo, scusate la parola molto volgare, ma siamo dei cazzoni, l'abbiamo imbottigliato molto di recente, perché per noi abbiamo una cantina davvero piccola e davvero disorganizzata e non abbiamo tanto tempo e quindi non abbiamo potuto imbottigliarla quando avremmo voluto. E quindi pensiamo che potrà avere un bel vantaggio a stare in bottiglia ancora per un bel po'. E questo è 2006, quindi è un vino ormai abbastanza anziano. È un vino un po' scorbutico, un po' nervoso, è difficile da piazzare geograficamente, perché marca molto il nostro terroir, che è un terroir roccioso e sabbioso insieme. È un clima non diverso, non particolarmente diverso dagli altri climi del Piemonte, forse un po' più umido in primavera, ma in realtà non cambiano molto. Abbiamo sempre buone maturazioni, e quello che cerchiamo noi è di avere una buona maturazione alcolica insieme a una buona maturità dei tannini. Quello per noi è un po' una ricerca costante. E poi il vino va in tante direzioni diverse, questo perché ci sono tante uve diverse, perché le vigne sono tanto vecchie, quindi è un vino un po' incontrollato. Noi lo lasciamo fare secondo come la sua natura fa. Quante bottiglie fate di questo vino? Ne facciamo 3 barrique, quindi 800, 900 sì, bottiglie? Più o meno, sì, 800 bottiglie in realtà. Scriviamo 900 perché ce sarebbero 900, però poi tolti i residui, le parti non sane, rimangono 800 bottiglie, sì. Paola, voi dell'etichetta gialla, quello lì, quante bottiglie? 4.800, che è stata tutta la produzione del 2008. 4.800, che è stata tutta la produzione del 2008, 5 ettari, quindi con una resa più o meno del 25%. Non è la parola giusta, resa. Non, con una non resa del circa 25% più o meno. No, meno. Vi è piaciuto? Molto. Adesso però dobbiamo dire anche... No, volevi aggiungere qualcosa, no, Daniele? No, ringraziato, no. Ho detto che è piaciuto. Grazie. No, grazie. Volevo aggiungere anche, le aziende che avete conosciuto qui stasera sono appunto Terra d'Arcoiris, Chianciano, Garella, Massirano in provincia di Biella e Eris Spagnol, Guia di Valdobbiadene, sono ovviamente tutti e tre qui. Dobbiamo dire per correttezza anche il prezzo sorgente delle bottiglie che abbiamo presentato, non arriva fino a lì. No, questo è mio. Il prosecco? Il prosecco, questo qua che avete assaggiato, sono 4,60 franco cantina con l'IVA. Ok. Fino che non aumenta. Fino che non aumenta, fino che tu non l'aumenti. No, io la pago. L'IVA, ok. L'IVA. Mm. Fino a che non aumenta. Paola, sì. Etichetta gialla. 6 euro il prezzo sorgente, compresa IVA, 21%. Vorrei ricordarvelo. 21%, sì, non è poco, eh? No, è tantissimo. Daniele, Juan? Il nostro costa 17 euro, e mi rendo conto che è un vino caro. Sei caro. È molto caro, sì. 800 bottiglie, ragazzi. È un cruccio. Chi se ne accaparra? È caro, però è... No. Poi non abbiamo mai fatto il conto di quanto ci costa farlo, quindi... Secondo me ci va in perdita se fai... Non li fare! Io credo che tu non l'abbia fatto. No, la sappiamo bene, è un ottimo. Però, però bisogna pensare, per esempio, al discorso dell'IVA. Commentarla, perché noi, avendo un reddito di un certo tipo, non è che possiamo scaricare, noi la paghiamo e basta. Come la paghiamo? È un problema, in effetti. Come la paghiamo? Sia lo Stato, certo. Sia se ci sono domande o commenti, se no chiudiamo, vi salutiamo, vi ringraziamo. Grazie a Paola, Eris e Daniele.